l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia, benvenuti all'altra Europa. Oggi puntata speciale, puntata live dalla fortezza di Montepulciano, nella postazione di Radio 24, all'interno di Luci sul lavoro, immagini, musiche e parole che raccontano il lavoro, e tenteremo di farlo anche noi oggi con il nostro punto di vista, che è sempre quello europeo. Una puntata che vedrà una giostra di ospiti, alcune voci appunto del festival, altre invece venuti appositamente per raccontare le loro storie, perché lo sapete, l'Europa che ci piace raccontare è l'Europa delle storie, delle persone, delle possibilità e delle opportunità. E do subito il benvenuto a Marinella Colucci, coordinatrice nazionale della rete EURES. Ciao Marinella. Ciao, buongiorno. L'Europa e il lavoro, credo che EURES sia una delle espressioni più concrete, più tangibili, proprio in un tweet. Ricordiamo che cos'è EURES. EURES è la rete europea dei servizi per l'impiego, quindi in concreto una rete di persone che in tutti gli stati membri aiutano i datori di lavoro e coloro che cercano lavoro a, ad incontrarsi e appunto a finalizzare rapporti di lavoro. Quindi una connessione reale, qui avete avuto un incontro seminariale all'interno di Luci sul lavoro, insomma vi siete guardati in faccia, anche perché ci sono delle novità, entreremo poi nel concreto per spiegare anche ai nostri ascoltatori come davvero la rete possa essere una opportunità. Ma una delle parole chiave di questo festival è anche musica, e noi la musica l'abbiamo qui live dalla nostra postazione di Radio 24. Yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smile at me and really ease the pain. The dark days are gone, the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one, so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine, okay, Sunny. And thank you for the love you brought my way. You gave to me your all and all, and now I feel 10 feet tall. Sunny one, so true, I love you. Un grazie a Ruggero Bonucci. Ciao Ruggero. Ciao, buongiorno. Cantante dei Deep Blue Trio di Perugia, maturando, appena maturato, vero? Sì. Questo diciamolo, che sì, insomma è da pochissimo. Da pochissimo. E tu hai partecipato all'European Social Sound, che è stata questa manifestazione che si è sviluppata a Perugia. Adesso andremo a capire anche di cosa si tratta, ma soprattutto è risultata finalista del concorso Regio Star Award 2016. Sono stati annunciati ieri i finalisti e appunto c'è anche questa manifestazione nella gestione efficace, questa è la categoria. Ma per capire che cos'è Regio Star abbiamo con noi Mara Fraticelli, che è responsabile comunicazione FSE Umbria, ideatrice e organizzatrice di European Social Sound. Ciao Mara, benvenuta. Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Beh, intanto credo una bella soddisfazione essere stati premiati. Grandissimo. Essere inseriti tra i finalisti, sono tre o quattro le realtà italiane. Che cos'è Regio Star? Regio Star sono gli Oscar un po' dell'Unione Europea, in cui in varie categorie ci sono le nomination per i progetti che risultano essere più innovativi e che hanno un alto potenziale di trasferibilità, e noi siamo molto molto fieri come Regione Umbria di far parte di questa categoria. Crescita intelligente, crescita sostenibile, crescita inclusiva, che sono parole anche che sono ritornate in questi giorni qui a Luci sul lavoro. Con Regio Star si vanno a cercare proprio progetti sul territorio, progetti replicabili, perché questo è l'importante anche di queste iniziative. Grazie davvero Mara intanto per essere qua con noi, e soprattutto Ruggero, che farà un po' da colonna sonora di questa puntata. Torniamo alla rete EURES, torniamo da Marinella. Allora Marinella, prima abbiamo dato un cappello a questa rete. Operativamente come funziona? Io cerco lavoro, posso essere disoccupato, ma posso essere anche una persona che ha voglia di cambiare. Sì. Prospettive, bussa un sito internet, bussa uno sportello, vi telefona, come si opera? Allora, ci sono sicuramente gli operatori EURES, i consulenti EURES che sono nei centri per l'impiego, quindi negli uffici locali che si occupano appunto di offrire servizi per il lavoro, è un personale specializzato quindi in mobilità, nella mobilità professionale. E poi naturalmente c'è un supporto di tipo informatico, ci sono i siti regionali quindi e locali, oltre che ovviamente il sito nazionale che è Click Lavoro, su cui appunto si possono trovare tutte le informazioni relative alla rete EURES, al personale, quindi dove trovare questi operatori nei singoli centri per l'impiego, oltre che una serie di informazioni sui progetti specifici. Mi viene da pensare al tuo primo lavoro EURES, che è proprio un progetto ad hoc dedicato ai giovani tra i 18 e i 35 anni che cercano opportunità di lavoro negli altri stati membri. Quale prospettiva mentale bisogna avere prima di avvicinarsi ad EURES? Cioè, bisogna essere disponibili a formarsi, forse a cambiare nazione, forse a mettersi in gioco, accogliere l'opportunità di un'esperienza all'estero che sicuramente è formativa, e i dati ci dicono anche che quando si ha un'esperienza lavorativa o anche formativa all'estero si hanno anche più chance nel momento in cui si ritorna di trovare lavoro, perché naturalmente il curriculum è più appetibile, diciamo, perché sicuramente il fatto di essere di essersi messo appunto in gioco e alla prova in un contesto diverso da quello a cui si è abituato è sicuramente sintomo di maggiore proattività e di maggiore capacità di adattamento. Spesso ci sono numeri che non si incontrano, cioè tantissimi disoccupati da una parte e tantissime offerte di lavoro dall'altra. EURES nasce anche per favorire questo incontro, ma è solo mancanza di conoscenza di queste possibili connessioni, o ci sono buchi formativi, o ci sono professioni che non si conoscono? Quali sono le... Sicuramente c'è un gap di tipo informativo rispetto a determinate richieste che non sono appunto conosciute, ma anche un gap di tipo formativo, perché il mercato corre molto velocemente, per cui talvolta non si riesce a stare dietro, per cui è importante che rispetto a offerte di lavoro vi sia una stretta connessione con offerte di carattere formativo, quindi adeguare anche la preparazione delle persone rispetto appunto alle novità che il mercato ci offre. E sicuramente la rete EURES, che comunque crea un network anche con altre reti, mi viene da pensare anche ad Erasmus Plus, è sicuramente fondamentale per dare un'informativa a 360 gradi a coloro appunto che vogliono mettersi in gioco, come ci dicevamo prima. Ci sono nazioni più gettonate di altre? Cioè, si arriva anche col desiderio, al di là di fare quella professione, di andare in quella nazione? Sicuramente ad esempio la Spagna è molto appeal, anche la Germania, soprattutto per quanto riguarda gli ingegneri, che sono molto richiesti, e devo dire al netto della Brexit anche la Gran Bretagna, soprattutto nel settore sanitario, è molto richiesta. Vedremo. Ricordaci le coordinate digitali per avere tutte le informazioni. Qual è il sito di riferimento? www.clicklavoro.gov.it è il nostro sito, dove c'è una sezione dedicata ad EURES, quindi cliccando su EURES ci sono tutte le informazioni. Perfetto, ringraziamo. Grazie a voi. Aspetta che intanto tutto a posto? Ok, ringraziamo Marinella Colucci, coordinatrice nazionale EURES, per il contributo che ci ha portato. Ci fermiamo, credo sia il momento del traffico, poi torniamo qua in diretta da Luci sul Lavoro. L'altra Europa. Well, she's walking through the cloud with a circus mind that's running in. Butterflies and zebras and moonbeams and fairy tales ride through the wind. Oh, when I'm sad, she comes to me with a circus mind. She gives me free. It's alright, she said, it's alright, babe. And taking a thing you want from me. Anything. saranno annunciati l'11 ottobre a Bruxelles i vincitori di Radio Stars Award 2016 European Social Sound, uno dei progetti italiani finalisti. Ruggero Bonucci, cantante dei Deep Blue Trio, con noi oggi qui a Luci sul Lavoro. Mara, però dobbiamo anche annunciare i vincitori, perché loro i Deep Blue Trio erano finalisti e i vincitori sono stati la band del Pinguino Imperatore col singolo La Barba, sì, che in questo momento è tredicesimo col video che abbiamo registrato come premio alla Regione Umbria nelle classifiche video, e poi è il primo assoluto, e invece il premio del pubblico è andato a The Staplers con Like a Rainfall. E noi abbiamo convocato Ruggero perché appunto hai studiato alla maturità fino a ieri praticamente, quindi sì, non aveva organizzato le vacanze, eri libero e quindi hai accettato il nostro invito. Ma torniamo a parlare di lavoro, lo facciamo con Paolo Emilio Reboani, presidente, amministratore delegato di Italia Lavoro, un po' il padrone di casa qui a Luci sul Lavoro. Ciao, ciao Paolo. Ciao. Ciao. Allora, quanta Europa c'è stata in questi giorni di incontri, convegni, suggestioni, visioni? C'è stata tanta preoccupazione su quello che sta succedendo, tanta preoccupazione rispetto agli effetti che può avere questo referendum inglese sui giovani, e la dimensione, diciamo, principale è la libertà di circolazione e di movimento. Cioè la paura di un domani di ricominciare a girare per l'Europa avendo un passaporto. Credo che questo sia il tema di preoccupazione per tutti noi che siamo cresciuti e siamo vissuti in un'Europa senza frontiere. E come si risponde a questa preoccupazione? Ma si risponde cercando di creare le condizioni perché questa nostra libertà di circolazione e di movimento sia anche agganciata alla possibilità di trovare un posto di lavoro in Europa. La Marinella Colucci prima parlava di Eures, quella è una dimensione che non siamo riusciti, credo, completamente a trasmettere, a dare. Noi abbiamo creato l'Erasmus, abbiamo una generazione di Erasmus, di studenti, non abbiamo la generazione dei lavoratori. Credo che sia il tempo maturo per fare questo salto di qualità. Sono più preoccupati gli addetti ai lavori o i giovani? Ti spiego il perché di questa domanda. Ho visto anche facce serene camminando per Montepulciano, incontrando le persone col pass, serene nel senso non sprovvedute, non ingenue, però negli occhi un po' la convinzione che alla fine comunque ce la si può fare, cioè esistono strumenti, esiste una grammatica, esistono canali per... Ma esiste tutta la strumentazione, esiste, e poi tu hai visto qui oggi gli operatori, cioè quelli che devono fare, quindi è bene che questi siano ottimisti e fiduciosi. La realtà è che però questi si trovano di fronte tanti giovani, secondo me, che oggi hanno o cominciano, possono avere questa preoccupazione, no? Sentivamo andare in Inghilterra, rischia di non essere così facile, andare in Spagna, sì, è un grande paese, ma rischia di essere altrettanto preoccupato. Cioè abbiamo una dimensione diversa che ci si apre e su cui bisogna riflettere. Immagini, musica e parole è il sottotema di Luci sul Lavoro. C'è un concorso di cortometraggi legato al festival che premieremo oggi pomeriggio. C'è bisogno anche di questa... Beh, secondo me narrativa, c'è anche una narrativa un po' meno burocratica, concedimela, un po' più emotiva forse. C'è assolutamente bisogno di anima. Questa è una dimensione, ripeto, che abbiamo perso. L'anima di tanti giovani è l'Erasmus. L'Erasmus è stato, secondo me, anima, e dopodiché non siamo riusciti a creare qualcosa di diverso per l'anima. E do il benvenuto anche a Elisa Rotta della Fondazione Sodalitas di Pacts for Youth, che è questo progetto di cui adesso ci parlerà. E quanta anima c'è nel vostro lavoro? Perché voi partite proprio pensando a giovani, ai NEET forse, no? Giovani che hanno scelto... Grazie dell'invito, sono molto onorata di essere qui con voi oggi e per raccontarvi appunto di questo progetto, questo European Pact for Youth, che nasce a livello di Commissione Europea, ma è già una partnership col settore privato, in particolar modo con un'organizzazione che lavora in Europa con 10.000 imprese, raggiunge 10.000 imprese in tutta Europa, che è CSR Europe. In Italia è rappresentata appunto dalla Fondazione fondazione che io qui oggi rappresento, e quello che vogliamo fare è proprio far emergere tutte le sperimentazioni, tutte le esperienze che oggi sono già in campo e che speriamo che possano crescere sempre di più rispetto alle partnership tra le imprese e il sistema educativo a tutti i livelli. Quindi fare in modo che i giovani incontrino l'impresa e il mondo del lavoro anche magari prima di conseguire il titolo di studio, proprio con una finalità anche di orientamento in primo luogo, e poi di cominciare già a trasferire quelle competenze, quelle cosiddette competenze trasversali, le soft skills, la capacità di lavorare in gruppo, di capire cosa significa anche essere in un'impresa e in un contesto lavorativo, che poi renderanno i giovani più spendibili nel mercato del lavoro, quindi agevolare questa transizione che oggi sembra molto complicata per molti. Elisa, ed è sempre la scuola comunque il luogo della scelta, dell'incontro, o ci sono anche altri ambiti che forse ci siamo dimenticati, o forse troppe volte abbiamo ignorato, o forse troppo abbiamo invece lasciato alla scuola senza poi offrire gli strumenti giusti? Certo, noi cerchiamo nella scuola il primo interlocutore, l'interlocutore privilegiato, perché è lì che i giovani si formano. Devo dire che veniamo anche da un periodo in cui, con la riforma della buona scuola, c'è anche la voglia della scuola di aprirsi a un contesto esterno, quindi facilitare l'incontro con mondi che prima non si parlavano tra loro. E poi sicuramente anche nelle nuove tendenze a livello di policy europee sulle competenze che servono ai giovani, c'è tutto un tema di come riconoscere quelle competenze che i giovani formano in contesti non strutturati, quindi anche al di fuori del contesto lavorativo, come può essere il mondo del volontariato, ma anche, non so, la musica o altre situazioni. Quindi sicuramente anche quella è un terreno di sfida. Skills for Jobs, quali competenze per lavori che cambiano nei mercati che crescono? Era il titolo di una delle tavole rotonde che si è tenuta questa mattina, tavola rotonda aperta da un'introduzione di Luigi Bobba, sottosegretario al lavoro, che poi è dovuto ripartire, ma abbiamo recuperato al volo al telefono, abbiamo il piacere di avere con noi. Buongiorno Bobba. Buongiorno. Grazie intanto per avere, così sappiamo che ha dovuto accostare durante il viaggio, anche se c'è un aereo che l'aspetta per questa intervista. Competenze, questa parola è una parola che ha acquisito quasi un significato nuovo ultimamente. Quanto dobbiamo puntare sulle competenze per veramente vedere risultati, per dare nuove speranze a questi giovani? Credo che sia un tema cruciale per due ragioni, perché le competenze sono connesse da un lato al diritto di accesso di ogni persona che lavora, una buona formazione, una buona scuola, a un buon, diciamo così, capacità di mantenere un proprio profilo professionale. Dall'altro le competenze sono indispensabili, la radice della parola è la stessa, perché le nostre imprese rimangano ancora competitive. Ecco allora che il lavoro che si sta facendo, cercando di riconnettere scuola e lavoro, formazione azienda, conoscenze e competenze, ha sostanzialmente questi due obiettivi: da un lato evitare che un numero crescente di persone, di adulti e allo stesso tempo anche di giovani cadano in un circuito di esclusione, rimangono imprigionati, diciamo, in mercati del lavoro che non hanno prospettive di futuro, e dall'altro lato questo investimento nuovo sul capitale umano, questa centralità della persona, diventa un elemento decisivo per le imprese per produrre valore, valore economico, valore sociale, valore ambientale. Solo così le imprese possono rimanere competitive e allo stesso tempo creare quei fattori positivi per cui le persone non siano abbandonate in circuiti di esclusione, di diseguaglianza, di mancanza di opportunità. Sottosegretario, prima parlavamo di preoccupazione oggettiva, vista l'attualità, vista la situazione che poi da diversi anni ci avvolge. Abbiamo parlato anche di anima legata al mondo del lavoro. Lei, se guarda negli occhi un giovane oggi, cosa si sente di dirgli? Prima di tutto di guardare, diciamo così, con realismo ma anche con speranza al proprio futuro, di guardare a dei percorsi che, formativi che vadano al di là, diciamo, magari delle mode con cui tante volte si fanno le scelte, e dall'altro lato di misurarsi comunque con qualche opportunità lavorativa, anche breve, anche di un tirocinio, perché questo, come dire, aiuta a mettersi, a sintonizzarsi con il mercato del lavoro. Il risultato più recente del rapporto di ISFOL su garanzia giovani ci dice che quei giovani che hanno avuto una misura da garanzia giovani hanno il 50% in più di possibilità di trovare un lavoro. Insomma, tanto più stai lontano dal lavoro, tanto più stai lontano da un luogo dove puoi apprendere delle competenze, metterti alla prova, tanto più ti sarà difficile entrare in modo stabile, in modo positivo nel mercato del lavoro. E dunque credo che questo debba essere, diciamo così, la strada da seguire, e il compito delle istituzioni è di creare una rete di servizi formativi e di servizi di politiche attive del lavoro, perché le persone non siano abbandonate a se stesse, lasciate, diciamo, in spazi di esclusione dove si alimenta il rancore, la rabbia, la frustrazione, che generano poi quei fenomeni che vediamo, diciamo così, un po' in tutta Europa. Grazie davvero, sottosegretario, per essere stato con noi. Luci sul lavoro, buon viaggio. Grazie, arrivederci. Paolo, avete parlato molto, state parlando molto appunto di alternanza scuola-lavoro, un po' vista la riforma, un po' perché finalmente anche in Italia si è capito che la scuola ha bisogno dell'azienda e viceversa. Ma questo sicuramente è una nuova dimensione delle politiche, non del dibattito, ma delle politiche. Tanto se ne è parlato tanto, perché questo oggi è uno dei progetti di punta di Italia Lavoro, coinvolge tantissime aziende, coinvolge le scuole, ne parlavamo prima, in maniera fortissima, coinvolge tutti quelli che si muovono in questo mondo dell'istruzione, che è il primo mondo in cui il giovane viene a contatto. Quindi se noi non mettiamo subito a contatto questo mondo con quello delle imprese, perdiamo un anello importante dello sviluppo della persona, e quindi noi abbiamo molto insistito su questo. Grazie davvero, ora ci fermiamo un attimo di pubblicità, poi ancora qua in diretta dalla fortezza di Montepulciano, luci sul lavoro con l'altra Europa. L'altra Europa. Gypsy once told my mother before I was born, you got a boy child coming, you're gonna be a son of a gun, gonna make pretty women jump and shout, and the world will know what it's all about. But you know I'm here, everybody knows I'm here. You know I'm the hoochie coochie man, everybody knows I'm here. On the seventh hour of the seventh day, on the seventh month, seven doctors say he was born for good luck, that you'll see. I got a $700, don't you mess with me. But you're not here, everybody knows I'm here. You know I'm the hoochie coochie man, everybody knows I'm here. Un progetto per comunicare l'Europa in maniera innovativa, questo è European Social Sound, finalista al concorso Rezzo Star Awards 2006. Abbiamo il piacere di avere con noi Ruggero Bonucci, uno dei cantanti che ha partecipato al concorso per questa puntata dell'Altra Europa speciale dalla fortezza di Montepulciano, luci sul lavoro. Si parla appunto di lavoro, ma non solo. E adesso entriamo proprio in Europa, lo facciamo con le istituzioni, dando il benvenuto a Carlo Scatoli della Direzione Generale Occupazione, Affari Sociali e Inclusione, Commissione Europea. Benvenuto. Grazie. E poi una delle opportunità che più volte abbiamo citato all'interno dell'Altra Europa, che è Erasmus per imprenditori. Con noi Pietro Bubabello delle Lyson Office, l'ufficio per il trasferimento tecnologico dell'Università di Siena. Buongiorno. Benvenuto Pietro. Buongiorno. E poi Roberto Del Buono, invece, dell'azienda agricola La Cignozza di Chianciano Terme, Siena, che ha partecipato come ospitante, vero? Sì. Ospitante di Erasmus per imprenditori, per capire come si concretizzano questi progetti. Carlo, parto da te. Hai partecipato anche tu alla tavola rotonda sulle competenze, mettendo l'accento sulle iniziative italiane in applicazione delle politiche europee. Come vengono recepite queste politiche? C'è facilità di comunicazione prima e di esecuzione poi? C'è facilità di comunicazione prima, perché ormai ci sono delle reti molto ben consolidate, dei canali ben rodati di comunicazione tra il livello europeo e i livelli nazionali. La Commissione non presenta nessuna proposta che non sia stata discussa a fondo prima con i livelli operativi nazionali e spesso anche regionali, e non solo istituzionali, ma anche prendendo in considerazione le cosiddette parti sociali e le altre parti interessate, quindi le imprese, i sindacati e altri rappresentanti della società civile. A livello poi esecutivo, naturalmente, ciascun paese e ciascuna parte interessata si concentra sulle proprie priorità. Per esempio, abbiamo recentemente lanciato un'azione che si chiama Garanzia per le competenze, il cui fine è di dare a tutti gli adulti con bassa qualifica l'opportunità di poter incrementare il livello delle proprie competenze di base, cioè le competenze alfabetiche, numeriche e digitali. Naturalmente a livello nazionale poi ciascun paese vedrà su quale target, su quale quota di popolazione è meglio concentrarsi. Probabilmente in Italia, visto che c'è un livello di disoccupazione piuttosto elevato, saranno i disoccupati i primi beneficiari di questa azione. In altri paesi saranno forse i migranti recentemente arrivati. C'è un'ondata migratoria importante che c'erano diversi paesi dell'Unione Europea. In altri paesi invece ci si concentrerà piuttosto sulle fasce più giovani della popolazione adulta, in altri piuttosto su quelle di età maggiore. Quindi a livello attuativo dipende molto dalle singole priorità nazionali. Certo. Quali competenze per lavori che cambiano nei mercati che crescono? Cosa sta cambiando prevalentemente? Il modo di lavorare, i lavori, le persone, le competenze, la formazione? Qual è il punto cruciale? Sta cambiando un po' le modalità stesse del cambiamento, stanno cambiando. Le tecnologie cambiano oggi molto velocemente, le modalità organizzative cambiano anche molto velocemente. Oggi ci ritroviamo davanti a modalità di organizzazione del lavoro che non erano possibili 30 anni fa grazie alle nuove tecnologie dell'informazione. Pensiamo a Uber, Airbnb, BlaBla ed altre case del genere. Sono migliaia e migliaia i lavoratori coinvolti in questi esercizi. E quindi le competenze che servono sono in primo luogo le competenze trasversali, le competenze che servono a generare le altre competenze, la competenza a sviluppare altre competenze, le competenze comunicative, le competenze imprenditoriali, lo spirito di iniziativa, lo spirito di apertura è fondamentale. Le competenze digitali, le competenze linguistiche, insomma, comunicative e relazioni interpersonali. Chi prepara oggi i giovani al sistema di istruzione e formazione formale deve sapere che prepara i giovani per dei lavori che oggi non possiamo neanche immaginare. Pietro Bubabello, quanto le competenze, quanto la ricerca di queste competenze sono inerenti e centrate ad Erasmus per imprenditori, che è un'esperienza assolutamente pratica e operativa? Sì, è un progetto che è partito nel 2009, era in una forma, diciamo, di prova, tra virgolette, ora invece è diventata assolutamente strutturata per la Commissione. Devo dire è un progetto bellissimo, perché mutua un po' quello che era l'Erasmus dei nostri tempi universitari, universitari, insomma, che c'è anche ora, però lo declina in una maniera totalmente diversa, ovvero si vede due figure principali che sono il nuovo imprenditore e l'imprenditore host, come viene chiamato nel programma, e diciamo è molto semplice: c'è un giovane imprenditore che può essere anche una persona che non ha mai avuto un'esperienza imprenditoriale o che l'ha avuta però inferiore ai 3 anni, può cercarsi un suo diciamo omologo in un altro paese della Commissione, della Comunità Europea, ma non solo, perché ci sono anche altri paesi tipo Israele, qualche altro paese insomma del nord Europa che aderiscono al programma, e poi attraverso un sito, una procedura completamente informatizzata e centralizzata, le due richieste, l'offerta e la domanda si incontrano. Dicevo, il programma per noi come Università di Siena è stato veramente un successo, se vogliamo, perché abbiamo veramente mandato in Europa tantissimi giovani. Ci hanno poi fatto insomma un po' il resoconto, qualcuno sì, qualcuno no. I campi operativi sono stati più molteplici: si va dalle persone che volevano specializzarsi nella loro progettazione, quelli che volevano portare avanti un'attività nella ristorazione. Per esempio, c'è un ragazzo di Roma che l'altro giorno ci ha mandato una mail nella quale appunto ci diceva che finalmente a Berlino era riuscito ad aprire il suo locale. Perché comunque vai, cioè, no, è più di un tirocinio. Sì, cioè, assolutamente. Vai e ti affianchi all'imprenditore e capisci quelle che come sono fa, la, come la quotidianità. Esatto. La commissione, scusami, chiarisce un concetto che secondo noi è molto importante, ovvero sia quello che non si va per lavorare né per fare uno stage, si fa semplicemente per acquisire una serie di competenze presso un'altra persona che ha ovviamente un'esperienza lavorativa che è migliore o comunque più lunga della tua. Io volevo anche porre l'accento su una questione molto importante. Non è il ragazzo che termina il percorso in Erasmus per giovani imprenditori non è assolutamente poi obbligato ad aprire un'attività. Okay. Perché io, lavorando agli liaison office ormai quasi da 17 anni, noi ci occupiamo di trasferimento tecnologico, quindi soprattutto di spin-off, di brevetti e di formazione per l'imprenditoria, notiamo che non tutti sono capaci di fare l'imprenditore. Quindi alla fine del percorso potrebbe essere anche che un ragazzo ci dice: guardate, no, mi sono accorto che non fa per me. Roberto, poi fra un attimo ci racconterai anche la tua storia, perché appunto tu hai ospitato uno di questi giovani dalla Bulgaria. Dalla Bulgaria, okay. Sì. Quindi per capire quello che è successo, appunto l'esperienza pratica. Carlo, prima di salutarti, questa è un'esperienza di cosa significa condividere, mettere in circolo conoscenze e competenze? Assolutamente, sì. A livello europeo parliamo molto di mobilità, una parola che viene spesso fraintesa a livello nazionale e locale, ma è una parola fondamentale. Non ci può essere progresso in Europa se non c'è una vera mobilità, a partire dalla mobilità morale, dalla mobilità di spirito, dallo spirito di apertura che deve rimanere fondamentale. E che fortuna i giovani, la gioventù europea di oggi è in grado di avere queste competenze a livelli molto elevati. Abbiamo visto nel recente referendum in Gran Bretagna, che si è concluso purtroppo con il Brexit, che la grande maggioranza dei giovani ha votato per rimanere in Europa, ha votato per un'apertura di spirito, per poter avere contatti con gli altri. E questa è una parola chiave che non smetteremo mai di pronunciare. Bisogna veramente sempre entrare in contatto con gli altri e sapersi confrontare, sapersi mettere in gioco, perché non ci può essere progresso e sviluppo se non ci si mette in gioco. Grazie davvero a Carlo Scatoli. Noi ci fermiamo, il traffico poi ancora qua in diretta con l'altra Europa. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti, vi presenta l'altra Europa. Eccoci qua ancora con l'altra Europa, fortezza di Montepulciano, luci sul lavoro, con esperienze pratiche e concrete, dove appunto il grande palco del lavoro diventa l'Europa. Roberto Del Buono, imprenditore, ha partecipato ad Erasmus per imprenditori con l'Università di Siena, ospitando un collega bulgaro. Com'è stata questa esperienza per te e per lui? Sicuramente è stata un'esperienza, ci ha cresciuto a entrambi. A me fu proposto questo Erasmus, credo di essere stato il primo nel mio settore in Europa a partecipare a questo tipo di scambio. Io ho ospitato questo ragazzo bulgaro, Ivan, che veniva appunto dalla Bulgaria e aveva l'intenzione di aprire una piccola cantina nella proprietà di suo nonno. Aveva questo sogno perché appunto la Bulgaria è un paese produttore di vino e lui è ancora abbastanza giovane, appena finita l'università, aveva avuto mi sembra un paio d'anni o tre di esperienza del mondo della bancario, a un certo punto ha deciso di seguire questa sua passione e anche lui si è informato di questo progetto, è entrato a conoscenza di questo progetto e ha incontrato la mia, diciamo, domanda. Io appunto avevo richiesto di poter partecipare potendo solo ospitare perché non potevo ormai, erano passati i miei... Non ero più giovane. Esatto, non ero più abbastanza giovane comunque del mio lavoro anche per poter andare, diciamo, a fare l'esperienza. Io ho ospitato questo ragazzo, è stata eccezionale come esperienza perché lui... non essendo del settore, comunque ha fatto degli appunti in questi mesi che è stato da me, che comunque mi hanno fatto riflettere. Lui appunto veniva dal mondo della finanza. Abbiamo ragionato su come poter espandere i mercati, diciamo, appunto del vino. Io vendo il vino, diciamo, in diversi paesi del mondo. E mi ha dato una mano, cioè mi ha un po' aperto la mentalità. Abbiamo comunicato in inglese, quindi lui voleva chiaramente imparare l'italiano, io volevo, diciamo, aumentare la mia conoscenza dell'inglese, lui fortunatamente parlava un inglese abbastanza decente e quindi ci siamo scambiati, lui con i miei genitori parlava italiano e quindi imparava l'italiano, con me invece parlava l'inglese e quindi è stata un'esperienza, diciamo, che ha sicuramente arricchito entrambi. Io credo che lui abbia poi per un po' di tempo perseguito questo suo sogno di aprire questa piccola cantina, però non credo che sia stato così facile perché insomma la Bulgaria è un paese tosto. Però insomma questo credo che hai raccontato bene il cuore, no, dell'Erasmus, che comunque chi ospita e chi viene ospitato, c'è veramente uno scambio di conoscenze, competenze, culture. Sì, penso, c'è anche l'amicizia. E poi c'è l'amicizia. Poi si è creata l'amicizia, ancora ci sentiamo, ormai sono passati diversi anni, ma ancora ci sentiamo e è bello insomma sentirsi. Enzo, quando dai invece da Aosta sei partito per andare a Londra, tu l'inglese lo parlavi bene? No, ma neanche adesso. Enzo Gullone, labottega.co.uk per conoscere poi nei dettagli la sua storia. Tu adesso sei un imprenditore, non c'entra l'Erasmus, alla faccia di Brexit, tu anzi, hai portato entra. Un pezzo di Aosta là. Esatto, un pezzo di Aosta... in un modo bellissimo, perché faccio il general manager, che è una cosa che neanche sapevo cosa fosse, okay. Ho dovuto vedere sul vocabolario cosa vuol dire, e praticamente vuol dire essere direttore di una catena di locali italiani. Ho 6 locali italiani che gestisco, 64 dipendenti, che adesso me li chiamo i figli, i bambini, e ho un locale in Italia, e quindi ho una vita abbastanza noiosa. Ogni mese vado e vengo dall'Italia. Oh, ragazzi, è bellissimo avere la scusa di andare in Italia ogni mese per lavoro. Tornare in Italia, in Inghilterra, bellissima l'Inghilterra, ma l'Italia ha il suo appeal. Visto che mio collega qua ha parlato del vino bulgaro, sono curioso poi di assaggiare com'è il vino bulgaro, il vino nobile di Santa Sofia, magari, speriamo che sia interessante. Non l'abbiamo. Ha insegnato proprio buono, sì, bravo. Enzo, ma di tutte le parole che hai ascoltato oggi, anche all'interno della puntata, qual è stata la parola a cui tu ti sei aggrappato per la tua svolta? Sì. Opportunità, competenza, intuito, il buttarsi? No, infatti l'hai già detta. Competenza. Competenza uguale coraggio. La competenza non è che si ha così, bisogna andare a cercarsela e quindi ci va tantissima gavetta. Ammiro qua gli discorsi che fate sulle botteghe di mestiere, l'alternanza duale, tutto modo per avere competenze, ma bisogna sempre vedere se chi, il ragazzo che c'è dietro, è veramente interessato, perché a volte io sono in Inghilterra, ho tantissimi italiani che molti sono solo su per imparare la lingua, che è una competenza, ma vorrei che fossero un po' più motivati. Insomma, se c'è motivo dietro, se c'è una necessità, un bisogno, una curiosità, la gente impara delle cose che poi serviranno sempre. Anche imparare a pulire un bagno nella vita servirà sempre. Sei preoccupato per Brexit? No, zero. Anche perché sono sempre italiano, quindi casomai se mi mandassero via vado in Italia, che è un posto bellissimo. Allora, ricordiamo ancora il sito labottega.co.uk, si parla di esperienze replicabili, ovviamente la tua tante variabili e tante caratteristiche, forse non facilmente replicabili, però questa cosa che hai detto, competenza e coraggio, credo che sia un aspetto assolutamente da amplificare. Pietro, prima di salutarci, so che hai un appello personale contro la burocrazia, vero? No, diciamo che in questo periodo, oggi si parla tanto anche di Brexit durante la trasmissione, una delle critiche che, come sapete, anche molti inglesi hanno mosso, no? Proprio per proporre la Brexit, era quella della burocrazia. Noi ovviamente, come Ateneo, ma soprattutto come persone che lavorano, perché non vorrei insomma far passare ora dei concetti un po' sbagliati, però la burocrazia europea è soprattutto nella nostra parte di back office, cioè nella parte di gestione del progetto di Erasmus per giovani imprenditori, è stata molto sentita, quindi ovviamente noi ci auguriamo che sia tutto più facile possibile. Grazie davvero, grazie a Montepulciano per l'ospitalità, grazie a tutta la squadra dell'Altra Europa di Radio 24, Elena Ligios, Pietro Lacorte, Alessio Petrucci qui a Montepulciano, poi tutto il resto della squadra in studio a Milano. E vi ricordo anche che domani mattina alle 9 parte Terra in Vista, le Olimpiadi spiegate a mio figlio, io insieme a Telmo Pievani, un viaggio estivo per raccontare ai più piccoli le Olimpiadi. L'appuntamento con l'Altra Europa e a sabato prossimo. Vi saluto con le ultime note di Ruggero Bonucci, l'European Social Sound, perché l'Europa va raccontata anche con la musica. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. It's been too long. Anytime she goes away, wonder this time when she's gone. Wonder if she gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone. It's all begin too long. Anytime she goes away. Ancora buon sabato da Federico Taddia. L'Altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.